Sentimenti a pelle di uno spirito ribelle disilluso che osserva le stelle come un cielo a cielo chiuso. Zero parole come regime stretto in poesia, dato che se vado giù con le rime parte l'anarchia. Ascolta il cuore e la testa ma poi lascia stare, tanto sarà la tua tipa a dirti cosa devi fare. Ci puoi ragionare, ti ci puoi anche cullare, ma compare resti sempre un povero giullare. Pensi di poter andare oltre ma è impossibile, resti a giocare a nascondino con l'uomo invisibile. Ma sono cose palesi e scontate da altronde, non puoi comandare il mare di fermare le sue onde. Tuttavia ti illudi di riuscire a farlo un giorno. L'umiltà non esiste, infatti il suo simbolo è l'unicorno. Finirà tutto con l'ennesima anima che si appalta, mentre io non so dove andrò ma ci andrò a testa alta. Giorno passa, giorno viene, cosa ti sovviene? Andare oltre non conviene tra migliaia di pene, e tutto va sulla testa di sta povera gente che non credevano in niente, adesso sono niente. E giorno passa, giorno viene, cosa ti sovviene? Andare oltre non conviene tra migliaia di pene, e tutto va sulla testa di sta povera gente. Adesso sono niente. Chi ama vivere sereno, pensarci è grave. Francamente punto sull'odio come chiave, e non lo dico per fare il duro o il sentimentale. Dico che non puoi dire bene di ciò che ti fa stare male, e non contano parole e gesta impulsive. La situazione è questa per chi se la vive, per chi vive senza problemi è diverso, dato che non c'è nulla che abbiamo mai perso. Cambiano i tempi e i modi di esporsi, c'è chi lotta e chi si taglia i polsi. Tutto va di corsa, manco fosse Fallout. Se mi metto in moto, nulla può fermarmi come Juggernaut. Pensieri lisci col cazzo che li attutisci, non puoi bere alla foce della fonte dove pisci. Ma ormai lo fanno tutti e manco ci fanno caso, in sto mondo ad estra tu uccidere come Raizo. Giorno passa, giorno viene, cosa ti sovviene? Andare oltre non conviene tra migliaia di tane, e tutto va sulla testa di sta povera gente che non credevano in niente, adesso sono niente. E giorno passa, giorno viene, cosa ti sovviene? Andare oltre non conviene tra migliaia di tane, e tutto va sulla testa di sta povera gente. Non credevano in niente, adesso sono niente. Troppe storie da incidere, mostri da uccidere, fette di torta da dividere o esigere. Le parole di Tupac per decidere, perché devo vivere per morire se posso morire per vivere. Sti pensieri bastardi grazzano più del rum, stupidi come Van Damme ma cattivi come Von Doom. Tu sei oltre al mondo e non ti inchini, dici che uso la siringa, sì, per dare il latte ai gattini. Il limite è il cielo o una questione di fantasia, dato che finché c'è speranza il limite è la pazzia. Tu puoi vedere la tua ultima legato al padio, io conto su rime taglianti come gladio, in motti del palladio. C'è chi decide di prendere in mano la sua vita, e chi la perde a fare mamma non mamma come una margherita. E non puoi donare il tuo cuore come Will Turner, ti conviene ignorarlo finché non saprai che farne. Giorno passa, giorno viene, cosa ti sovviene? Andare oltre non conviene tra migliaia di tane, e tutto va sulla testa di sta povera gente che non credevano in niente, adesso